queste brevissime considerazioni prende lo spunto dai Beiträge zur Philosophie e si chiama I venturi e l'ultimo Dio, poesia e sacro nei Beiträge. Se i Beiträge, come Heidegger stesso tiene immediatamente a dire, hanno un rapporto solo esoterico con la storia della filosofia, essendo invece esotericamente, in senso ermeneutico, in rapporto con l'Ereignis, allora il compito dell'interprete che voglia prenderli come spunto per alcune brevi considerazioni sulla questione Heidegger e la teologia non viene certo facilitato in partenza. Ben più diretto, così potrebbe pensarsi, avrebbe potuto essere l'aggancio con scritti quali Fenomenologia e Teologia, ad esempio. Ma la nostra impressione è che con lo studio dei Beiträge si possa guadagnare l'accesso ad aspetti del pensiero di Heidegger praticamente invisibili altrove, aspetti fondamentali che non sono andati perduti nel corso della riflessione heideggeriana successiva, costituendone anzi una premessa ineliminabile. Nella forzata brevità di queste nostre considerazioni ne mettiamo in evidenza subito due. La caratterizzazione del rapporto esistente fra il primo inizio e l'altro inizio della storia dell'essere e del pensiero che le corrisponde, ed il configurarsi, per così dire, poetico-linguistico dell'Ereignis. Dalla lettura dei Beiträge si evince immediatamente che Heidegger intende il proprio pensiero come un pensiero di passaggio, di tramite, fra la fine della metafisica e quello che l'altro inizio potrebbe significare, e ciò per il fatto che esso smette di interrogare l'essente, si rivolge invece alla verità dell'essere e in qualche modo si prepara infine a conformarsi all'essere della verità. Scrive Heidegger: Im anderen Anfang muss die Wahrheit des Seins gewagt werden als Gründung, Erdenkung des Daseins. C'è un forte accento utopico in tutto ciò. Un accento che forse Heidegger è andato un po' attenuando nel corso degli anni successivi, ma senza il quale la radicalità delle sue tesi non sarebbe neppure lontanamente avvicinabile. L'utopia, che è realmente tale perché esclude ogni automatismo e si tinge coraggiosamente di visionarietà, è riconoscibile non solo nel tono generale di tutti i Beiträge, ma nella richiesta pressante di trasformazione dell'uomo in Dasein e nell'individuazione della Ahnung, dell'Erahnen, quale Grundstimmung del pensiero nell'altro inizio, in contrasto con l'Erstaunen che aveva caratterizzato il primo inizio. Al silenzio, al negarsi, al ritrarsi dell'essere e da tutte le altre espressioni, fra virgolette, negative che Heidegger usa per delineare l'incontro, per molti versi assurdo, in quanto al di là di ogni orizzonte significativo tradizionale, che avviene nel passaggio dal primo all'altro inizio, fra essere ed esistente, a tutte queste espressioni, fra virgolette, negative fanno riscontro le esperienze poetiche del linguaggio come esperienze della non oggettivazione del mondo. Di più, lo spazio che si apre al Dasein, finalmente divenuto il fondamento che l'Ereignis usa per la verità dell'essere, non è solo quello della misura poetica dell'esistente, ma è anche lo spazio del mostrarsi o del ritrarsi degli dèi e del Dio. Uno spazio in cui il Dasein, come indica Heidegger, non conta più il numero degli dèi, né calcola l'unicità del Dio. Essendosi appropriato all'essere nella sua verità, il Dasein si è portato in una regione in cui l'esperienza del sacro e del divino parla un altro linguaggio, Quale? Innanzitutto, forse, quello di ogni esperienza, che già di per sé raccoglie sempre nella parola il nulla del detto, non riducendolo quindi a presenza o addirittura a oggetto usabile, ma lasciandolo mostrare nella sua finitezza, quella finitezza che Heidegger vede propria dell'essere quale viene esperito nell'altro inizio, proprio grazie al cenno dell'ultimo Dio. Citazione: nel cenno dell'ultimo Dio si rivela la finitezza più intima del Sein. Fine della citazione. Inoltre, e questo con più certezza, il linguaggio della poesia come lingua del dire di Hölderlin. Non possiamo infatti considerare casuale che il nome di Hölderlin compaia sempre nei momenti vitali della riflessione heideggeriana nei Beiträge e che la meditazione sul dire di questo poeta abbia accompagnato il pensatore lungo gli anni cruciali della sua personale esistenza. Non si riduce certo l'importanza del pensiero heideggeriano se si afferma che, come noi facciamo, Hölderlin è il segreto della voce di Heidegger. Occorre allora chiedersi cosa abbia scorto Heidegger nel dire di Hölderlin e come tutto ciò abbia a che fare con il problema di una sezione centrale dei Beiträge, quella intitolata L'ultimo Dio. In primo luogo, bisogna però precisare che l'affermazione secondo cui Hölderlin è il segreto della voce di Heidegger non significa affatto che si pretenda di avere storiograficamente scoperto da dove Heidegger abbia tratto temi importanti per la sua riflessione. Non è questo il punto. La coincidenza profonda fra poesia e pensiero si presenta invece all'interprete in tutta la sua problematicità e resta interrogativo da non potersi certo risolvere in questa sede. Occorre comunque riflettere a fondo sul seguente punto e sulla sua intricata articolazione ermeneutica. Heidegger pensa con Hölderlin l'essenza dell'essere del primo inizio, come physis, natura. La pensa nel suo doppio aspetto di natura fondante la presenza e di primo rilucere dell'abisso, del ritrarsi dell'essere. Heidegger vive con Hölderlin il passo del poeta verso questo presentire del segreto della natura e del suo fondamento. Il segreto dell'anen dei poeti, che vanno incontro alla natura, non andando perciò stesso incontro alla sua riduzione ad oggetto, ma a quel suo sfuggire, cito, a ogni produrre che pervade ogni cosa con la sua presenza e che, perché prodigiosa onnipresente, la natura, abbraccia i poeti. Assieme a Hölderlin, Heidegger esperisce che nella natura, come fondamento dell'essente nel pensiero del primo inizio, cito, gli opposti possono manifestarsi nell'estrema acutezza della loro alterità, fine della citazione. Il che significa che la poesia di Hölderlin, proprio nell'età storica dell'idealismo hegeliano, che ripropone e compie su di un superiore piano della storia della dimenticanza dell'essere il percorso iniziatosi con Platone e la sua interpretazione della verità, la posizione di Hölderlin ha la forza ed il compito di un'esperienza della verità e della differenza così iniziale da offrire nuovamente al pensiero dell'essere quella inizialità che gli consente di portare a compimento il primo inizio e di prepararsi all'altro inizio. Tutto ciò, a nostro avviso, rinvenibile in una riflessione che si faccia carico di pensare la coappartenenza dell'interpretazione heideggeriana della poesia Viven am Feiertage alle parti dei Beiträge dedicate al primo inizio e al ruolo che nel pensiero essenziale di esso hanno i venturi, come Heidegger stesso chiama i poeti. Cito: I poeti sono i venturi, la cui essenza viene misurata a secondo di quanto essa stessa si commisura all'essenza della natura. Fine della citazione. E di Hölderlin non dice forse Heidegger che egli è il più venturo? Hölderlin, nell'interpretazione poetico-linguistica del suo dire, compie ciò che riporta il pensiero dell'essere a quella inizialità che l'Ereignis stesso richiede per l'altro inizio. Compie cioè l'appropriazione del Dasein al Sein, appropriazione che è linguistica, perché l'orizzonte manifestativo dell'Ereignis è la lingua, ma non il linguaggio, nel senso che ciò sembra aver assunto in Gadamer, bensì il linguaggio poetico, come Heidegger lo pensa grazie a Hölderlin. Il dire di Hölderlin, detto ora più filosoficamente, riporta il pensiero a quella inizialità del suo dire, dove il logos non è ancora asserzione, ma coappartenenza di presenza e assenza nella automanifestazione della presenza stessa. È per questo che Heidegger, a proposito di Hölderlin, può chiedersi nei Beiträge: Was bereitet sich vor? Welche verborgene Geschichte des vielberufenen 19. Jahrhunderts geschah hier? Occorre assumersi l'impegno della risposta, almeno di un tentativo. Il qui di Heidegger, è la poesia Wiewen am Feiertag. Scrive Heidegger, a proposito dell'importanza di questa poesia, che, cito, Hölderlin non vuol far semplicemente rivivere con ciò che chiama natura ciò di cui venne fatta esperienza nell'età greca arcaica. Hölderlin, poeta, nella parola natura, ein anderes, che pure sta in un riferimento nascosto con quanto una volta venne detto physis. Fine della citazione. Quell'altro, di cui Heidegger parla a proposito di Hölderlin, quell'altro è l'altro inizio che si annuncia nel ritorno all'inizialità del primo inizio, il quale non per questo lo contiene, ma che pure ne permette al poeta il presentimento, la visione. È quello che altrove abbiamo chiamato il superamento nella natura e che, brevemente, ci sembra corrispondere a quanto Heidegger dice, sempre a proposito di Hölderlin, quando egli scrive che, citazione, il nome natura viene già oltrepassato come parola poetica fondamentale nell'inno Wiewen am Feiertag. Questo oltrepassamento è la conseguenza e il segno di un dire che comincia in modo più iniziale. Fine della citazione. Tale oltrepassamento, che è appunto il poetico presentimento dell'altro inizio, avviene nella parola del poeta. Citazione. Nella parola si rivela l'essenza di quanto è nominato. La parola, infatti, nominando l'essenziale, recide l'essenza dalla non essenza. Fine della citazione. Se la parola può questo, essa lo può perché l'Ereignis ha carattere linguistico-poetico. Ed è anche perciò che il poeta si trova a contatto strettissimo con il sacro e con il divino, tanto stretto e inestricabile che si è creduto di poter liquidare tale questione con superficiali affermazioni, il cui succo può essere così riassunto. In Heidegger il problema del sacro e del divino viene estetizzato. Heidegger riduce Dio all'essere e il secondo inghiotte il primo. Noi ci distacchiamo fortemente da queste semplificazioni, come anche dai tentativi, in fin dei conti complementari, di far capire che Heidegger chiami essere ciò che la teologia chiama Dio. No, per Heidegger, almeno così ci sembra, il Dio cristiano rientra nella storia dell'essere come presenza che, fra virgolette, si chiude con il superamento della metafisica. Da qui la sua critica alla teologia e alla sua impostazione filosofica, una critica insormontabile, persino ricorrendo alla facile scappatoia dello Heidegger mistico. Parlando della Kehre nell'Ereignis, Heidegger afferma che l'Ereignis braucht das Dasein, portandolo in tal modo, e cioè forse nello spazio linguistico poetico, dinanzi al Vorbeigang dell'ultimo Dio. L'ultimo Dio non coincide ovviamente con l'Ereignis. Cito: l'ultimo Dio non è la fine, ma l'altro inizio di innumerevoli possibilità della nostra storia. Fine della citazione. Eppure, der äußerste Gott bedarf des Seins. Questa necessità significa la riduzione del divino all'essere, o non piuttosto allude alla poeticità segreta dell'Ereignis, il quale, appropriando il Dasein al Sein, offre ai venturi lo spazio per poter dire il nome di Dio senza confinarlo in quella presenza che rischia di ridurre ogni presenza ad oggetto, anche la suprema, perché non la salvaguarda, proprio mentre crede invece di farlo ancorandola all'essente. La poesia non è la risposta definitiva al sacro ed al divino. Essa si accontenta di nominarli, di nominare il sacro ed il divino, senza ancorarli alla presenza. Cito ancora da Heidegger: ciò che è presente non ha bisogno di tradursi in ciò che sta di fronte. Ciò che sta di fronte non ha bisogno d'essere percepito empiricamente come oggetto. Fine della citazione. Cosa prepari l'altro inizio? Se esso accada, ciò è ignoto. Ma la poesia, terra di frontiera fra il primo e l'altro, sembra, almeno ora, custodire il mistero del nome di Dio. Grazie.